Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il terzo aspetto riguarda il Santo Natale, che per tradizione è la festa delle famiglie. Le famiglie non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno viverlo. È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi. Regole, anche ferree, ma certe. E beh, diciamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che le critiche del Presidente del Senato Casellati, insomma, non sono così infondate, nel senso che ancora adesso, sto aspettando io stessa in diretta per comunicarvelo, quali saranno le nuove regole del DPCM di Natale. C'è scritto sui vari siti, tra poco la conferenza stampa di Conte, attesa la conferenza stampa di Conte, visto che il CDM, il Consiglio dei Ministri, poco fa ha dato il via libera a questo nuovo DPCM, alla nuova stretta sul Natale, però attendiamo con ansia. Quindi nel momento in cui comparirà il viso di Conte sugli schermi, io vi farò sentire naturalmente le prime dichiarazioni che farà a proposito di questo DPCM, che poi cercheremo di analizzare nel corso di questa puntata con il costituzionalista Alfonso Celotto e con il presidente dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia Laquaniti, così da ricordare e anche da chiarire meglio le regole, che non sempre sono chiare. Ecco, da alcune anticipazioni che vi dirò, forse bisogno di una spiegazione, di una traduzione ulteriore ci sarà. E poi naturalmente molte altre cose, molte notizie che vi racconterò tra poco anche nella sintesi della giornata. Per i vostri commenti e domande, lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per i WhatsApp 349-238-6666, 349-238-6666, appunto, perché c'è bisogno, dicevamo, di regole chiare, decise per capire come ci dobbiamo comportare a Natale. Sintesi della giornata. Il DPCM di Natale, il CDM dà via libera al nuovo decreto, Italia zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione negli altri giorni, serve unità, dice il governo alle regioni. L'andamento del coronavirus in Italia, meno contagi ma a fronte di meno tamponi, calano ricoveri e terapie intensive, sale l'indice RT nazionale, le vittime sono 674. Allarme esodo e shopping nel fine settimana, treni sold out, le città approvano nuove strette per le vie dei negozi. Manovra economica verso lo slittamento al 2022 della Sugar Tax, stop il prossimo anno alla prima rata IMU per i settori turismo e spettacolo. Nuova Alitalia, scontro tra manager e sindacati sul piano della compagnia, si partirebbe da 52 aerei e 5.200 dipendenti. La liberazione dei pescatori sequestrati in Libia, i pescherecci di Mazara partiti dal porto di Bengasi verso casa, arriveranno domenica, sono scortati da una nave della Marina. Partiamo quindi dal via libera del CDM poco fa al nuovo DPCM per la stretta di Natale. Siamo in attesa appunto della conferenza stampa di Conte, ma queste sono le anticipazioni. Sarebbe costituito da tre articoli con le misure della stretta anti-Covid appunto per le feste. L'Italia dovrebbe essere tutta zona rossa dalla vigilia alla Befana per 10 giorni festivi e prefestivi, zona arancione invece nei 4 giorni feriali di quel periodo. Nei festivi e prefestivi lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno tra le 5 e le 22, poi ci faremo meglio spiegare dai nostri ospiti, verso una sola abitazione nella stessa regione e nei limiti di due persone non conviventi, fatti salvo i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Appunto, attendiamo precisazioni da Conte. E poi dati sul coronavirus, secondo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, di oggi i nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia sono 17.992 i nuovi casi di contagio a fronte di 179.800 tamponi e il tasso di positività sale al 10%. 674 sono le vittime. Allarme per l'indice RT, che in Italia risale dallo 0,82 allo 0,86, cioè l'indice di contagiosità, per la prima volta in controtendenza, perché stava man mano scendendo, invece è risalito. Secondo questo il monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, tre regioni, Lazio, Liguria e Veneto, sono a rischio alto. 13 tra regioni e province autonome a rischio moderato, Marche e Trento con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese, e 5 regioni sono a rischio basso, diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri e il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Rezza, ha detto che ci vuole quindi molta attenzione ancora e rigore. Per parlare poi più ampiamente della situazione epidemiologica in Italia sarà ospite qui a Effetto Notte la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. E poi c'è l'allarme esodo, quindi, di tutti quelli che partiranno nel fine settimana e anche per lo shopping. Intanto i treni sono sold out, le città approvano nel frattempo delle nuove strette per le vie dei negozi. Fin qui il capitolo delle prossime feste natalizie, ma che cosa accadrà dal 7 gennaio? Fari puntati sulla scuola. I piani per il rientro a scuola, messi a punto con i prefetti, in diverse province sono già pronti. I ragazzi entreranno scaglionati tra le 8 e le 10 e in alcune province si sta anche stabilendo di modificare l'orario di ingresso degli uffici o quello delle aperture dei negozi per alleggerire nelle ore di punta i mezzi di trasporto. È il caso di Milano, il cui sindaco ha comunicato che in città i negozi, a partire dal 7 gennaio, apriranno alle 10.15. Sentiamo Sala, Sky TG24. Il tema non è tanto l'ingresso nelle scuole, sono i mezzi di trasporto. E vi do una notizia, dal 7 gennaio gli esercizi commerciali milanesi, escludendo alimentari e bar, apriranno alle 10:15 e così scaglioniamo un po'. Quanto alla data di riapertura, tutti concordi. Se rispetteremo le restrizioni a Natale, si potrà tornare in classe il 7 gennaio. Lo hanno ribadito il presidente del CTS, Miozzo, e la ministra Azzolina, secondo la quale più saremo responsabili, più l'obiettivo sarà realizzabile. Un auspicio e insieme una raccomandazione condivisi in giornata anche dal premier Conte e dal commissario all'emergenza Arcuri. Eppure diversi ritardi ancora si stanno accumulando. In Piemonte, ad esempio, il tavolo prefettizio sarebbe stato rinviato a dopo gli esiti del confronto regioni-governo, quindi a lunedì, mentre dalla Campania il governatore De Luca ha fatto sapere che se riaprirà o no le scuole lo deciderà a inizio gennaio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Politica, l'Aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Con 153 voti a favore, 2 contrari e 4 astenuti, il provvedimento viene convertito in legge. Il centrodestra non ha partecipato al voto, è stato approvato in prima a lettura alla Camera il 9 dicembre scorso, quindi il nuovo decreto sicurezza è legge. E siamo alla pagina economica, diverse le novità per la manovra nel suo passaggio parlamentare alla Camera in Commissione Bilancio. Dalla Banca Centrale Europea intanto critiche al cashback. Nuovi ecoincentivi per le auto, niente IVA sui vaccini e ammortizzatori sociali per le partite IVA con indennità da 800 euro per 6 mesi. Sono questi alcuni dei ritocchi alla manovra contenuti nel maxi emendamento all'esame della Commissione Bilancio in Senato, che dovrà inviare poi il provvedimento alla Camera lunedì. Fra le novità dell'ultima ora c'è il congedo per paternità che dal prossimo anno sale a 10 giorni dai 7 inizialmente previsti per la nascita dei figli. In arrivo anche lo stop al pagamento della prima rata IMU nel 2021 per alberghi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, bed and breakfast, discoteche e nightclub, mentre la sugar tax slitta al 1 gennaio 2022. E per le famiglie con un ISEE sotto 20.000 euro ci sarà il kit digitalizzazione, che include un cellulare incomodato d'uso per un anno connesso ad internet, un abbonamento a 2 organi di stampa e l'app Io. Alla Camera intanto il decreto ristori, incassata la fiducia, è stato definitivamente approvato. Il provvedimento contiene una serie di misure varate dal governo nei mesi scorsi per sostenere i settori economici più colpiti dalle restrizioni decise per contrastare la diffusione del coronavirus. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre a proposito di coronavirus, anche uno sguardo all'estero. Austria, gli impianti sciistici apriranno nonostante il lockdown dal 26 dicembre al 17 gennaio, ma con l'obbligo di mascherine FFP2 quando si è in fila. Le attività motorie all'aria aperta sono consentite. Nuovo record intanto di contagi in Germania, con 33.777 nuove infezioni in 24 ore e con 813 vittime, la Germania raggiunge il secondo valore più alto nel giro di 2 settimane. Invece, per tornare alle questioni italiane, passiamo alle novità sull'annosa questione Alitalia. Si apre con un duro scontro tra dirigenza e sindacati la nuova Alitalia, ora ITA SPA, con questi ultimi che rispediscono al mittente il piano industriale. Non è condivisibile in quanto assolutamente inaccettabile. Al centro della polemica la maxi cura dimagrante della compagnia di bandiera, che partirà contando su solamente 52 aerei e poco più di 5.000 dipendenti, la metà degli attuali, come confermato dalla D. Lazzarini. L'obiettivo è arrivare al 2025 con un raddoppio dei dipendenti, 80 aerei, quasi 100 rotte e oltre 3 miliardi di ricavi. Si partirà il prossimo anno puntando sulle rotte di breve e medio raggio che dovrebbero per prime recuperare traffico passeggeri. Il break-even è previsto tra 2 anni. Vogliamo creare una compagnia aerea sostenibile con una strategia in discontinuità col passato, afferma Lazzarini. E questo passerà necessariamente dalla ricerca di una partnership. Principali candidati Air France, KLM e Lufthansa. Il presidente di Alitalia Caio parla di un vettore competitivo capace di misurarsi sul mercato. Ma per l'appunto i sindacati mettono il dito nella piaga di un dimagrimento eccessivo, si riducono i collegamenti, soprattutto il lungo raggio e l'attività di volo, sparisce dal piano il cargo e ci sono inevitabili riflessi sulle attività di manutenzione e sui servizi di handling, affermano CGL, CISL, UIL Trasporti e UGL. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buone notizie almeno per i dipendenti di Barilla, bonus di 1000 euro per ogni dipendente, non è il primo caso tra i grandi gruppi alimentari. 1000 euro a ciascun dipendente a titolo di ringraziamento per l'impegno profuso nel 2020. È questa l'iniziativa annunciata dal gruppo Barilla durante l'evento aziendale di fine anno per esprimere gratitudine a tutti i dipendenti che con il loro sacrificio e il loro coraggio hanno continuato a prestare servizio nonostante l'emergenza sanitaria. Barilla, che opera in più di 100 nazioni e 4 continenti, distribuirà un importo totale di 11 milioni ai suoi dipendenti nel mondo. Quello di Barilla non è però un gesto isolato. A marzo il pastificio ha dato un aumento di stipendio del 25% ai dipendenti che hanno lavorato durante il primo lockdown e che hanno garantito la continuità negli approvvigionamenti alimentari. Stessa cosa per Ferrero, che ha versato 750 euro lordi ai dipendenti della rete di vendita e della logistica che hanno lavorato tra il 16 marzo e il 24 aprile. E così via, Mutti, Colussi e Nestlé, solo per citare alcune tra le aziende più note. Tra quelle non alimentari ricordiamo invece la Ferrari di Maranello e il gruppo Mediaset, che ad aprile le ha dato un bonus a circa 1000 dipendenti, tra cui tecnici e giornalisti, che hanno continuato a lavorare in prima linea, mentre il management ha deciso di ridurre i propri compensi per tutto il 2020. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca con le novità nell'inchiesta su Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre. A denunciare Alberto Genovese sono state altre 2 ragazze. In procura hanno raccontato di aver subito violenza sessuale da parte dell'imprenditore del web, a abusi che si sarebbero consumati dopo la cessione di droga nel corso di festini organizzati tra Mykonos, Ibiza e il lussuoso attico nel centro di Milano, dove una delle presunte violenze sarebbe stata registrata dalle telecamere interne. Immagini ora al vaglio degli inquirenti, il sospetto è che quella stessa notte altre ragazze sarebbero state vittime di abusi. Salgono così a 4 gli episodi per i quali Genovese risulta indagato. Alla prima denuncia presentata ad ottobre da una 18enne che ha poi portato al suo arresto si è aggiunta quella di una ragazza di 23 anni. I fatti risalirebbero alla scorsa estate ad Ibiza. In questo episodio è coinvolta anche l'ex fidanzata di Genovese, mentre il suo braccio destro, Daniele Leali, è indagato per cessione di droga. E sul giro di stupefacenti durante i festini ora indaga la Guardia di Finanza, che ha avviato anche accertamenti patrimoniali. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24. Ieri abbiamo parlato della liberazione, della bella notizia di questa settimana dei pescatori di Mazzaro del Vallo sequestrati all'inizio di settembre in Libia, e c'era anche in particolare una delle mogli dei pescatori che è stata veramente, diciamo, molto emozionante nel suo racconto e nella sua gioia. Ebbene, oggi sono partiti dal porto di Bengasi 2 pescherecci della flotta di Mazzara del Vallo con i 18 pescatori di equipaggio liberati ieri dal governo libico di Haftar. Le 2 imbarcazioni fanno rotta verso Mazzara, dove arriveranno domenica, e sono scortate dalla fregata Margottini della Marina Militare. Una notizia che arriva dalla Svizzera: le coppie omosessuali potranno unirsi in matrimonio anche in Svizzera, è quanto deciso dal Parlamento elvetico, che ha approvato a Berna in votazione finale il disegno di legge che autorizza il matrimonio per le coppie dello stesso sesso. Sulla decisione parlamentare grava tuttavia l'annuncio di un referendum che intende contestare tale modifica al codice civile. Il via libera del Parlamento arriva ben 7 anni dall'iniziativa che aveva dato avvio all'iter, e la Svizzera è tra gli ultimi paesi dell'Europa occidentale ad autorizzare il matrimonio civile per tutti. Le grandi linee della legge prevedono che le attuali disposizioni che regolano il matrimonio civile si applicherebbero in futuro anche a quelli tra persone dello stesso sesso. La legge include la donazione di sperma per le coppie lesbiche, la naturalizzazione facilitata del partner e l'adozione congiunta. Un'altra decisione adottata dal Parlamento riguarda la possibilità per le persone transgender e intersessuali di cambiare sesso nel registro di stato civile senza dover passare, come oggi, davanti a un giudice. Il progetto di matrimonio per tutti era stato lanciato nel 2013 da un'iniziativa parlamentare. L'iniziativa oggi è in realtà una vittoria storica per i diritti della comunità LGBT, ha scritto in un tweet Amnesty Svizzera. Per chiudere, parliamo di Napoli e di Maradona. Si torna a parlare di Maradona. Il comune di Napoli, che già ha deciso di intitolare, e lo ha fatto, lo stadio San Paolo a Maradona, ne abbiamo parlato proprio qui effetto notte con l'assessore allo sport di Napoli, adesso il comune ha avviato il processo per erigere una statua di Diego Armando Maradona davanti allo stadio che ora porta il suo nome. Bene, allora mi fermo, aggiorniamo chi sta avvenendo, speriamo che subito dopo insomma il presidente del Consiglio Conte si decida a comunicarci effettivamente quali saranno le regole e restrizioni per il Natale, visto insomma che il tempo corre. Vi do appuntamento a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie principali, come sempre, ve le ho sintetizzate nella prima parte della puntata. Roberta Giordano sempre con voi. 349-238-6666 il numero per i vostri commenti via WhatsApp, altrimenti c'è sempre comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte. Siamo in attesa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte per illustrare il nuovo DPCM che riguarda le nuove regole anti-Covid per il periodo di Natale. Attendiamo e intanto concentriamoci sui vari temi. Questa è la novità di questa settimana, abbiamo un RT che cresce, a livello di paese si muove da 0,82 a 0,86, in alcune regioni cresce di più e supera l'1, tutti sappiamo che l'RT è il primo indicatore a muoversi, poi viene seguito dal numero di nuovi casi, poi viene seguito dai ricoveri in terapia intensiva e infine dai decessi. E quindi un movimento di RT in ricrescita, anche se minima, è un elemento di grave preoccupazione, perché vuol dire che la trasmissione dell'infezione sta riprendendo quota. Lo avete sentito dalle parole oggi in conferenza stampa del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, cioè che uno degli elementi di questa epidemia di coronavirus in Italia in questo momento che è più preoccupante è la risalita dell'indice RT, cioè dell'indice che dice quanto è forte la contagiosità nel nostro paese, e risale dallo 0,82 allo 0,86, quindi in controtendenza rispetto a quello che aveva fatto fino insomma a ieri, cioè quello di abbassarsi ma mano, è per la prima volta che risale. Secondo il monitoraggio questo settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute, 3 regioni, Lazio, Liguria e Veneto, sono a rischio alto. 13 tra regioni e province autonome sono a rischio moderato, però Marche e Trento con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese, 5 regioni a rischio basso. Quanto ai dati sui nuovi contagiati nelle ultime 24 ore e le vittime, ve lo dicevo già nella prima parte della puntata, i nuovi casi sono nelle ultime 24 ore 17.992 nuovi casi positivi ai test e le vittime sono 674. Il tasso di positività sale al 10%, cioè la percentuale di coloro che rispetto ai tamponi risultano positivi. Saluto la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, ringrazio per la disponibilità. Buonasera. Buonasera. Buonasera e bentornata. Allora, io aspettiamo tutti con ansia questo nuovo DPCM, non anticipiamo nulla, sentiamo che cosa ci dirà Conte, però perché così tanto tempo? Cioè, capisco che non sono decisioni facili, no? Però bisogna un pochino organizzarsi, un po' tutti devono sapere cosa fare, sottosegretaria Zampa, lei che ne pensa? Beh, che sicuramente l'impazienza e anche l'insofferenza, perché adesso a questo punto insofferenza ha una ragione. Al tempo stesso però posso assicurare che era importante per noi attendere anche le giornate di oggi e i numeri di oggi per mettere davvero a punto, cercando di impattare il meno possibile, e quindi ovviamente volevamo avere dati aggiornatissimi. Li ha appena fatti sentire lei nella registrazione dell'intervento di oggi del presidente Brusaferro. Non è irrilevante tenersi, diciamo, molto stretti, anzi è indispensabile tenersi coerenti con i dati. Allora facciamo sentire, visto... sì, prego. Abbiamo anche voluto fino adesso tentare di rendere compatibile la vita con il coronavirus, era un po' uno slogan, no? Dobbiamo convivere col coronavirus, in questi mesi lo stiamo facendo di fatto, quindi è già un grande sforzo. Quando si è molto precisi nell'intervento occorre anche poi attenersi molto a dati attualissimi. Senta, sottosegretaria Zampa, l'opposizione continua a criticare l'azione del governo in questo senso e a dire che se i morti sono così tanti il governo non ha fatto abbastanza, non è stata efficiente la politica del governo. Purtroppo è un dato dolorosissimo quello dei decessi. Ho visto che la Germania anche in Germania. E i dati, come oggi è stato ricordato anche dal direttore Rezza, che anche lui fa parte della cabina di regia. 813 che vedevo in Germania, sì. Sì, è arrivato anche a superarli l'altro giorno, cioè si attestano sempre anche loro attorno ai 1000. Purtroppo anche la Francia ha appena aggiornato i dati, sono 60.000. Tra l'altro devo anche dire che io credo che noi avremo davvero una idea precisa del numero di decessi in Europa quando potremo confrontare il saldo demografico annuale, perché solo a quel punto ci renderemo davvero conto se abbiamo usato tutti lo stesso metodo e quindi è da lì che deduci come ha impattato il Covid. Tra l'altro ho visto delle similitudini, anche quelle tristissime, cioè la Germania sono state aggredite le RSA in un modo impressionante. Questo, ecco, è un elemento che forse anche a livello europeo converrà un giorno affrontare, no? Immaginare come fare in modo che i nostri anziani, i nostri vecchi siano molto più in sicurezza di quanto non è ora, o arrivino anche in condizioni di salute migliori, perché vede, uno degli elementi che io trovo importante per il decisore politico è prendere atto non solo che l'Italia ha un invecchiamento della popolazione grandissimo, noi siamo il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone, ma purtroppo se i nostri cittadini e noi diventiamo vecchi, i dati ci dicono che non diventiamo vecchi in buona salute, cioè siamo malandati. Guardi che un terzo degli italiani assume fino a 10 principi attivi al giorno, vuole dire che ha tanti farmaci, quindi tante patologie. Sì, patologie anche severe, perché i principi attivi non sono un integratore, non sono un'aspirina, sono cose che ovviamente si assumono proprio perché contrastano patologie cronicizzate. Quindi questo credo che in prospettiva debba essere uno dei veri punti di riflessione della sanità del futuro, perché noi sappiamo che saremo ancora più vecchi come popolazione e dobbiamo fare in modo di arrivare più sani, cioè più in buono stato di salute. Questo vuol dire investire tantissimo nella prevenzione, in buoni stili di vita, in un'educazione e anche in più uguaglianza nell'accesso, perché vede, le disuguaglianze hanno molto penalizzato gli anziani. Essere anziano povero in una zona dove c'è poco servizio sanitario significa arrivare tardi a curarsi. Senta, ma sottosegretaria Zampa, ma sono abbastanza quindi i fondi che vengono stanziati per la sanità? Si parlava di 9 miliardi, è stata molto criticata questa cifra non solo dall'opposizione ma anche dentro il governo, per esempio da Italia Viva si parla del MES, no, dei fondi che dovrebbero arrivare per l'Italia e utilizzati per appunto il piano sanitario, il sistema sanitario nazionale, però sembra che ci sia sempre poi così la contrarietà del Movimento 5 Stelle. Quindi cioè, da una parte si esprimono giustamente delle esigenze e la necessità di una pianificazione, di un miglioramento, di un adeguamento, però dall'altra poi sono sufficienti i fondi? Allora guardi, i soldi, quelle risorse sono veramente, io l'ho trovato paradossale. Perché tra l'altro se purtroppo esiste un recovery fund o una next generation, la chiami come vuole, comunque esistono un ammontare così grande di risorse europee messi a disposizione per la ripresa, lo si deve, ahimè, a una tragedia che ha riguardato la salute. Quindi non si capisce perché noi non dobbiamo immaginare che di questo noi facciamo davvero tesoro ed è un insegnamento. Non riesco a capire come si possa immaginare che 9 miliardi. In realtà sono più di 9 miliardi perché ci sono risorse sparse in altri capitoli del Recovery Fund, sono nel green, sono nell'innovazione, ma anche sommandoli tutti per quello che mi è stato possibile conteggiare, non si arriva a superare i 14-15 miliardi. Noi ne abbiamo chiesti il doppio e il Ministero della Salute ha presentato progetti per oltre 26-27 miliardi. Voglio anche dire, guardi, a scanso di equivoci lo dico, credo di essere stata la prima, non dico in assoluto, ma forse in assoluto a dire che il MES andava immediatamente chiesto e preso, quindi lo premetto perché si comprenda bene lo spirito con cui lo dico. Buttarla però adesso in polemica dicendo allora il MES, a noi ci interessa che vengano dati più soldi alla sanità. Se è impossibile prenderli dal MES perché per il Movimento 5 Stelle quello è un tabù insuperabile, cosa assolutamente, che resta assolutamente inspiegabile per la gran parte di noi, per una gran parte della maggioranza, si mettano più soldi a disposizione della sanità, li si prendano dai soldi del Recovery Fund, questo ma non si faccia una cosa così stupida. Vedo che molta parte di società si sta muovendo, si sta mobilitando, più ci si mobiliterà e meglio è il futuro davvero di tutti. Chiaro. La sanità. Sottosegretaria Zampa, sentiamo che cosa ha detto oggi Rezza, direttore del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, appunto sulla scuola, perché continuano le proteste di studenti, sindacati, insegnanti, insomma, che dicono e la ministra Azzolina che insiste bisogna tornare a scuola il 7 gennaio, però già Rezza nei giorni scorsi aveva detto non è scontato perché bisogna vedere se si rientra in sicurezza oppure no. Sentiamo cosa detto oggi. Speriamo di assolutamente che si possa riaprire facendo didattica in presenza. Naturalmente questa è uno degli obiettivi che ci si deve porre assolutamente, anzi il motivo per cui si è chiesto anche, no? È stato chiesto di fare dei sacrifici, naturalmente dopo questo andrà valutato sulla base della situazione epidemiologica, io penso anche locale. Allora, abbiamo ancora proprio un minuto, poi la devo salutare, sottosegretario Zampa. Quindi si stanno adeguando tutti gli elementi, insomma, dal trasporto pubblico locale ai tamponi da fare a studenti, insegnanti, cioè si sta preparando per ricominciare. Mi pare che molte regioni stiano dando un ottimo esempio, stanno lavorando intensamente sugli orari, sul numero di autobus che verranno messi a disposizione, su ingressi anche scaglionati degli studenti. Le cito la mia regione perché so molte cose ovviamente della mia regione, ho letto di altri 500 pullman che verranno messi, autobus che verranno messi a disposizione del trasporto scolastico, di bravissimi dirigenti che stanno lavorando su anche gli orari, no? È una cosa fondamentale. Quindi questa, ci auguriamo, insomma, ecco, che non per forza ci debba essere una data in modo integralista, che però no, insomma, però a gennaio si parta di riaprire le scuole per i ragazzi. Sta veramente producendo molti guasti. Quindi, prima di salutarla, le voglio chiedere: ha messo le lucine di Natale alle finestre, ai balconi? Sì, a casa mia sì. Brava. Perché è una cosa che secondo me dà un certo calore alle persone, soprattutto in questo periodo, no? Fa piacere alzare gli occhi e vedere le lucine di Natale, almeno sì, quello. Assolutamente sì, ha ragione. Grazie. Ha fatto bene a dirlo. Grazie, sottosegretaria Sandra Zampa, e buon Natale a lei. Grazie, che sia un Natale sereno. Grazie, auguri. Allora, ci fermiamo di nuovo per una pausa di riflessione e ci auguriamo, insomma, che subito dopo possa dare voce a Conte, alla sua conferenza stampa, che ci spieghi appunto qual è il contenuto di questo nuovo DPCM. Ci sentiamo a breve. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte con me, Roberto Giordano, come sempre, è perché siete in ansia e volete sapere quali sono i contenuti di questo nuovo DPCM, che di momento in momento viene annunciato questo nuovo DPCM per le feste di Natale, ma qui diciamo che si legge che tra breve la conferenza stampa di Conte da circa un'oretta più o meno, quindi io ve lo annuncio man mano, però per il momento non vedo ancora novità. Tra l'altro questa è la mia ultima puntata del 2020, poi ci saranno ancora puntate di Effetto Notte il 21, 22, 23, mi sostituirà la mia collega Furlanetto. Però intanto coinvolgo almeno sulle anticipazioni di questo DPCM a cui ha dato già via libera comunque in serata il Consiglio dei Ministri. Saluto il professor Alfonso Celotto, il nostro costituzionalista di fiducia. Professor Celotto, buonasera. Eccomi, buonasera. Così come anche il dottor Girolamo Laquaniti, che è portavoce Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Bentornato anche a lei, dottor Laquaniti. Grazie, buonasera a lei, al professore e agli ascoltatori, ovviamente. Allora, io dico le cose che sappiamo e abbiamo su questo 10 minuti, perché poi parte il reportage, quindi siamo piuttosto compressi e cercavo di temporeggiare per aspettare le comunicazioni, la conferenza stampa di Conte, che però per il momento non arriva. Allora, che cosa prevederebbe questo nuovo DPCM? Un'Italia che sarebbe tutta in zona rossa dalla vigilia di Natale, quindi dal 24 dicembre fino alla Befana, fino al 6 gennaio, per 10 giorni festivi e prefestivi, quindi avrebbe le regole della zona rossa classica che ormai conosciamo, mentre sarebbe zona arancione nei 4 giorni feriali di questo periodo di vacanze dal 24 al 6 gennaio. E poi ci sono altre regole che riguardano festivi e prefestivi, cioè lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, e qui professor Celotto mi traduca per favore, allora le dico, nei festivi e prefestivi lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno tra le 5 e le 22 verso una sola abitazione nella stessa regione nei limiti di 2 persone non conviventi. Mi scusi, io già mi sono persa. Professor Celotto, prego a lei. Ma questa è la vera antilingua di cui parlava Calvino, eh? Cioè Italo Calvino condannava questa lingua contorta del burocratese, che praticamente sembra che ci consente un biglietto di sola andata, ma controllabile come, verso dove, veramente in questo modo io capisco che è difficile, cioè sono 5 giorni che noi stiamo aspettando di capire con chi possiamo mangiare a Natale, no? Che d'altra parte sarà sicuramente un Natale più triste, un Natale difficile, dopo 60.000 morti quest'anno, 2 milioni di contagiati, però sicuramente almeno quella tradizione, quel bisogno di affetto che noi abbiamo lo vai a complicare in una regola praticamente incomprensibile e del resto incontrollabile, e quindi questo ci crea ancora più disaffezione, più confusione, più incertezza. Invece per quanto riguarda quello che appunto anticipavo prima, cioè l'Italia tutta in zona rossa dalla vigilia, cioè dal 24 alla Befana, più esattamente nei giorni appunto festivi e prefestivi, che quindi lei mi ricorda, professor Celotto, sono il 24, 25, 26, 27, 31, 1, 2, 3, 5 e 6. Sì, praticamente sarebbero i giorni rossi sul calendario, diciamo, i giorni non lavorativi dovrebbero essere zona rossa. Ovviamente tutto questo è per cercare di diminuire gli spostamenti, gli incontri, le occasioni di contagio. Noi l'abbiamo detto tante volte, il virus cammina con le persone. Quello che un po' sorprende è che il 3 dicembre, cioè 15 giorni fa, erano state stabilite già regole chiare e severe per il Natale, vengono cambiate veramente all'ultimo minuto e senza ancora nessuna certezza. Ovviamente questo crea tanto sbandamento e tanta confusione. Allora, quindi zona rossa abbiamo detto 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e anche 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Sembra, che cosa succede quindi nella zona rossa di quei giorni? Sembra che sta chiamando i numeri della tombola, con questo elenco. Tombola, cinquina. Allora, sarà vietato in quei giorni, essendo zona rossa tutta l'Italia, ogni spostamento, lei mi corregga, professor Celotto, in entrata e in uscita sia tra le regioni, sia tra i comuni e all'interno degli stessi, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È sempre però possibile, come ci ricorda il dottor Laquaniti, rientrare alla propria abitazione o domicilio, ovvero dottor Laquaniti? Questo sì, con il dubbio a cui accennava prima il professor Celotto relativo al fatto che questo movimento, da come sembrerebbe impostata la norma, sarebbe consentito solo una volta, sicuramente per la cioè rientrare a propria residenza o domicilio, sì. Esatto, sicuramente un'attività che come posso dire, potrà essere controllata solo a posteriori, nel momento in cui nella banca dati si potrà verificare se il soggetto viene controllato più volte nell'arco della stessa giornata, ma sicuramente, come diceva il professore, non è un'attività semplice né che può essere contestata nell'immediato. Sono inoltre chiuse, sempre quando l'Italia è zona rossa tutta, le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi, e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e fino alle 22 l'asporto. Poi si può svolgere attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, sia attività sportiva ma esclusivamente all'aperto, appunto in dimensione individuale. Zona arancione invece, professor Celotto, l'Italia sarà tutta arancione nei giorni lavorativi all'interno di questo periodo natalizio dal 24 al 6. Quindi sarà arancione l'Italia il 28, il 29, il 30 dicembre e il 4 gennaio. Quindi rispetto alla zona rossa, professore? La grande differenza è che puoi circolare liberamente nel tuo comune. Cioè non ti serve l'autocertificazione nel tuo comune, ma puoi camminare, puoi girare. Per chi è fortunato come me che vive a Roma può girare più ampiamente. Ampiamente. Però è stato introdotta una norma a favore dei piccoli comuni, no? Di spostamenti dei piccoli, quando sono proprio piccoli. Sì, anche quello sotto i 5.000 abitanti, che in Italia sono migliaia, però anche lì entro 30 chilometri, non verso il capoluogo. Sono norme, come diceva giustamente anche il dottore, un po' cervellotiche e di difficile applicazione. Noi abbiamo bisogno di certezza e di chiarezza, soprattutto in una fase incerta come questi mesi, soprattutto in un'occasione comunque tradizionale come il Natale. Invece ci troviamo quasi a dover uscire col metro per misurare quanti chilometri o dove, un po'. Questo non rende lo Stato credibile, è la cosa di cui noi abbiamo bisogno, ecco. Ecco, appunto, ci vorrebbero anche, per esempio, in Germania, no? Si è deciso, ci sono delle regole molto chiare, anche molto severe, da quel periodo e basta, si rispettano. Quindi, come diceva anche la Presidente del Senato Casellati, oggi anche fossero regole molto dure, purché siano chiare e definitive, decise, insomma, per quel periodo. Dottor Laquaniti, c'è un allarme esodo dell'ultimo fine settimana in cui ci si può spostare, che questo, domani e dopodomani, prima della stretta di Natale, leggevo stazioni e caselle autostradali sorvegliati speciali? Ma saranno sorvegliati, come posso dire, per un'azione finalizzata soprattutto alle stazioni e agli aeroporti a evitare gli affollamenti. Io su questo, perché qualcuno o qualche opinionista ha fatto delle polemiche, si è domandato ma dove sono le forze dell'ordine, dove erano le forze dell'ordine quando le persone giravano per fare gli acquisti. Io ricordo che l'assembramento punito dal DPCM è il fatto che più persone volontariamente si assembrano e quindi si riuniscono tra di loro. Nei casi di affollamento, da un punto di vista giuridico, non è possibile intervenire. Faccio un esempio comprensibile per tutti gli ascoltatori. C'è una norma del codice della strada che punisce l'intralcio, il blocco della circolazione, vado troppo piano, mi fermo in mezzo alla strada, ma chiaramente non è una norma che può essere applicata a chi sta fermo, va pianissimo in autostrada perché c'è un ingorgo, perché c'è molto traffico. Per cui da questo punto di vista, ricordando che fino alle 22 del 20 gli spostamenti sono liberi, la presenza delle forze dell'ordine sarà finalizzata, diciamo, un'attività di controllo, di ordine, anche per situazioni magari spiacevoli, in qualche caso c'è stato qualche momento di tensione tra le persone. Viceversa, dal 21, per spostarsi tra regioni, anche se di colore giallo, sarà necessaria l'autocertificazione. Lì nelle stazioni troveremo checkpoint, siamo abbastanza abituati, perché nelle grandi stazioni per accedere, dove sarà controllata anche ovviamente l'autocertificazione, e poi da quella data anche nell'ambito delle autostrade dei posti di controllo, magari anche con incanalamento dei mezzi. Chiaramente, siccome ci aspettiamo un movimento dal nord verso sud in questi primi giorni, in uscita nelle regioni del nord e in ingresso nelle regioni del sud, dove le stime parlano di 50.000 persone destinate in Sicilia oppure di 30.000 destinate in Puglia. Non sarà un esodo biblico ferragostano, ma qualcosa che probabilmente ci andrà vicino. Vedo che dunque... Mi scusi un attimo, Roberta, prego. Mi scusi, voglio intervenire, prego, non professor, per correggere Celotto. Il dottor Laquaniti, sì. Ma perché da quello che ho letto il 21, 22 e 23 dovremmo ancora essere gialli. Cioè sembra che il 21, 22 e 23 gli spostamenti debbano, dovrebbero essere ancora liberi tra le regioni. È vero, perché in precedenza si diceva che dal 21 tutto sì, doveva essere bloccato, purtroppo, lo dicevo anche a beneficio degli ascoltatori per non creare ulteriore confusione e incertezza in questa fase di attesa, ecco. Sì, allora... no, io parlo ovviamente, ha ragione il professore, io purtroppo da tecnico più semplice parlo della normativa in questo momento certo, quella vigente in questo momento, certo. Nessuno, certo. Io sono ancora così, diciamo, in attesa di capire se, perché vedo anche il TG1, la RAI, che dovrebbe essere apparso il simbolo di Palazzo Chigi, dovrebbe parlare a momenti Conte, non so se devo mandare questo reportage, lasciamo il reportage del venerdì, evitiamolo e proseguiamo allora in attesa di sentire appunto se Conte a breve riuscirà finalmente a dire, anche perché tra gli stessi esperti comincia a esserci, no, dottor Laquaniti, diciamo un pochino di incertezza di capire che cosa dire alle persone, perché si rischia appunto, anche se queste sono le anticipazioni che vi abbiamo spiegato io insieme al professor Celotto e al dottor Laquaniti, si rischia poi di dire una cosa per un'altra, perché ancora non è definitivo quello di cui parlavamo, no? Professor Celotto. Sì, è proprio questo il punto. D'altra parte anche questa piccola discrasia fra me e il dottore è proprio per l'incertezza di dire quello che dovrebbe essere, quello che pare che sia, quello che è fino ad oggi. È questo che crea anche un po' di incertezza e il rischio che poi si vedeva oggi, la fuga oggi, domani, delle persone che cercano di partire prima, proprio perché, come diceva anche la Presidente del Senato, sono regole che vengono fissate un po' all'ultimo momento e ancora incerte, perché diciamo che è almeno da mercoledì che noi aspettavamo queste regole del Natale. Sì, evidentemente, non lo so, ci sono ancora dei contrasti, penso, all'interno della maggioranza di governo, perché se addirittura la conferenza stampa di Conte era annunciata grosso modo tra le 20:30 e le 21 e sono quasi le 22 e ancora non... questa conferenza stampa non inizia, evidentemente c'è ancora, diciamo, un po' del contrasto, ci sono difficoltà nel trovare una mediazione, non so cosa pensare a questo punto, insomma. Dottor Laquaniti, comunque le sanzioni per chi dovesse trasgredire le regole che capiremo, credo, spero, tra poco, quali sono, dottor Laquaniti? Le sanzioni sono purtroppo quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere, è una sanzione fondamentalmente amministrativa nel momento in cui dovessimo violare una disposizione del DPCM, cioè da 400 a 1000 euro, la sanzione è ridotta a 280 euro se viene pagata entro i 5 giorni. E attenzione, perché ogni tanto sento qualcuno che dice: va bene, ma io pago la multa pur di muovermi per vedere degli affetti. Devo ricordare che oltre alla sanzione ovviamente c'è l'obbligo di rientrare al luogo di provenienza nel momento in cui non dovessero essere considerati validi motivi per lo spostamento. Attenzione anche alle dichiarazioni che vengono fatte nell'autocertificazione, perché in caso di falso il rischio è di natura penale, non amministrativa. Si ricorda, dottor Laquaniti, che uno degli aspetti così un po' più controversi, anche da capire, da interpretare, è quello di domicilio, no? La seconda casa è domicilio, oppure domicilio è dove ogni pochissimo si va, è come una guardi, vera... Su questo io, guardi, più che altro ero pronto a fare una domanda al professor Celotto. Ah, prego, prego, possiamo interagire anche tra di noi. Che giuridicamente comunque ha una sua definizione, io stesso per esempio ho una residenza ancora a Roma e un domicilio per motivi di servizio a Verona, che è comunque in qualche modo certificabile, ha lasciato un po' perplessi nell'interpretazione quando nell'ultimo DPCM è stato introdotto anche il concetto di abitazione, cioè un luogo che pur non rientrando né nella residenza né nel domicilio è comunque di fatto un'abitazione utilizzata dal soggetto. Ecco, questo ulteriore ampliamento ha dato anche qualche dubbio di natura interpretativa a più di qualcuno, ecco, non so se il professore è d'accordo. Professor Celotto, no, vuole chiarire lei questo dottore, aspetto. Mi piace la sua domanda, perché è il tipico cavillo da chiedere allo studente all'esame, no? Mi distingua fra abitazione, domicilio e residenza, che come lei giustamente dice, la residenza è certa, perché ciascuno di noi ne ha una sola. Come la madre, insomma, mater certa est. Certo. Sempre poi. Certa, perfetto Roberta, perfetto. Poi, il domicilio è comunque accertabile, perché è un centro di interessi stabile, quindi è dove lavoro, dove c'è uno studio, dove c'è un ufficio, quindi è dimostrabile. E l'abitazione diventa una nozione sfuggente, ma proprio anche lì, in questo momento di incertezza, io posso dire ho un'abitazione a Grosseto, ma in che senso? Ci vado una volta l'anno? Sarebbe un'abitazione anche quella, però questo poi che ti lascia? Incertezza, discrezionalità e anche eventuali disparità di trattamento per i cittadini, per cui noi il punto è quello, torniamo prima, vogliamo regole certe, come in Germania, tutto chiuso, tutto rosso e basta, non però è ammissibile, però è possibile, un giorno cambia colore. E probabilmente questo ritardo è dovuto proprio al fatto di questa incertezza nel definire le regole, no? Quindi potrebbe appunto essere dovuto al fatto di non riuscire a far pendere da una parte o dall'altra certe regole, a chiarirle meglio, o forse proprio al fatto che ancora dentro la maggioranza di governo, la coalizione dei quattro partiti, evidentemente c'è qualcuno che tira più da una parte e qualcuno dall'altra. Sappiamo che c'è la linea rigorista e quella più aperturista, no? Quindi più rigorista in particolare Partito Democratico e Liberi Uguali, anche se non tutto il Partito Democratico, e dall'altra Conte con il Movimento 5 Stelle e anche Italia Viva. Ce l'ho, Otto. Sì, guardi, io questo glielo dico da studioso delle leggi. Il punto vero è che non puoi cambiare le regole a 3 giorni se si applicano dal 21 o a 5 giorni se si applicano dal 24. Perché tradizionalmente i cittadini, per obbedire alle regole, devono avere regole chiare e regole che abbiano un tempo per entrare in vigore, in maniera che siano percepite. Attenzione, attenzione, attenzione, c'è l'8, ecco finalmente Conte appare alle 21:51-50 secondi, sentiamo. Responsabilità dei cittadini. Questo metodo, lo ricordo, ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato a lungo e gravemente, peraltro per la seconda volta, il nostro tessuto sociale ed economico. Ricordo che quando siamo partiti con questo nuovo metodo a zone, eravamo con l'RT a 1,7, l'abbiamo riportato a 0,86, tant'è che nei prossimi giorni regionalmente tutte le regioni potrebbero entrare nell'area gialla. La situazione però rimane difficile e rimane difficile in tutta Europa. Francia, Spagna, Regno Unito, ma anche la Germania, l'Olanda hanno numeri in crescita. In alcuni paesi la Svezia in forte crescita. Il virus continua a circolare dappertutto. Si lascia piegare, ma non si lascia sconfiggere. È per questo che anche tra i nostri esperti c'è forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un'impennata nel periodo natalizio. In particolare, lo voglio sottolineare, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito l'altro giorno, ci ha fatto pervenire un verbale per cui ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti, la diffusa voglia, peraltro comprensibile, di convivialità e socialità che si accompagna in questi giorni, in particolare nelle festività natalizie. Dobbiamo quindi intervenire. E vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta, per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la conferenza stampa di Conte. Dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure: si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste 2 persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose, saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia, per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia, quindi delle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezione fatta per l'asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21. Abbiamo impiegato un po' di tempo, io stesso inizio questa conferenza stampa un po' più tardi, perché volevamo inserire direttamente in questo decreto legge anche immediate misure di ristoro. Comprendiamo le difficoltà del ritardo, evidentemente. Sentiamo. Comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente coinvolti da queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici, direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato e in particolare questo decreto legge dispone un immediato ristoro per circa 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio sono costretti, ahimè, alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto già ricevuto sulla base del decreto rilancio. E vi ricordo che il Parlamento ha appena concluso la conversione dei primi 4 decreti ristori, sono tutti confluiti in un unico decreto, e vi ricordo che in sede i parlamentari hanno fatto un grandissimo lavoro, sono riusciti anche a rafforzare queste misure di sostegno. Ancora il Parlamento in queste ore, in questi giorni, sta completando l'esame e quindi l'approvazione della legge di bilancio, che contiene, come già annunciato, ulteriori interventi. Con il contributo delle forze di maggioranza, ma qui devo sottolinearlo, anche con le forze di opposizione, il Parlamento sta rafforzando il regime degli interventi a favore delle categorie che sono più esposte a questa crisi economica e sono anche meno garantite. Parlo ad esempio dei lavoratori autonomi e anche delle partite IVA. Stanno facendo un grande lavoro tutti insieme e questo è un beneficio per tutto il Paese e soprattutto per le categorie più colpite. In ogni caso, con il nuovo decreto di gennaio, il nuovo decreto ristori di gennaio, provvederemo a compensare delle perdite anche gli altri operatori su cui non possiamo intervenire in questi prossimi giorni, oltre quindi ai ristoranti e ai bar, e qui interverremo anche con delle misure perequative per evitare che si creino ingiuste differenziazioni di trattamenti. Non escusiamo ovviamente nuovi interventi, dico solo una cosa: in questi giorni c'è molta critica per il cashback. Voglio ricordare che questa misura non è alleata degli assembramenti, è alleata dei cittadini, è una misura di sistema per la rivoluzione del Paese e i benefici vanno ben oltre questo periodo della pandemia. Quindi siamo qui Conte, a compiere in questa conferenza stampa che ha detto è stata ritardata perché insieme alle restrizioni volevamo anche decidere i ristori immediati da erogare con efficacia, ecco perché sta parlando adesso praticamente poco prima delle 22. Un concreto sostegno alle famiglie in un periodo così complesso. Ricordo anche che pur nei giorni di chiusura ci sono beni, negozi di prima per generi alimentari, di prima necessità, quindi si potranno pane, latte, basta acquistare con uno sconto del 10%. Insomma, abbiamo davanti la fine di questo incubo. Ci avviamo pur con misure restrittive al Vaccine Day. Il giorno 27 dicembre noi in Italia, un primo gruppo dei paesi europei insieme ad altri paesi europei, ci sarà il Vaccine Day. Questo è molto importante. Ovviamente non risolveremo il problema il 27 dicembre, dovremo attendere i primi mesi dell'anno dove inizieranno poi a distribuirsi queste dosi, interverremo con un piano vaccinale che abbiamo già anticipato. Dobbiamo trovare in questa certezza la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme, dobbiamo ancora rimanere concentrati, non abbassare la soglia di attenzione. Prego le domande. Ecco, quindi intanto appunto abbiamo seguito la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, tanto attesa per illustrare le regole del nuovo DPCM di Natale e dico al professor Celotto, il nostro costituzionalista, e al dottor Laquaniti, dei funzionari di polizia, praticamente le anticipazioni sono state rispettate, no professor Celotto? Guarda, possiamo confermare tutto quello che abbiamo detto prima. Le misure sono quelle che abbiamo detto. Quindi riepilogando appunto l'Italia che sarà tutta zona rossa dalla vigilia alla Befana per 10 giorni festivi e prefestivi, li ricordiamo, li snocciolava anche Conte i giorni uno per uno per non confonderci, che sono appunto il 24, il 25, il 26, il 27 e il 31 dicembre. Zona rossa, quindi dice si esce di casa solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Poi le metterò anche sulla pagina Facebook di Effetto Note per chi appunto non riesce a prendere appunti, che non è semplicissimo. È sempre possibile rientrare nella propria abitazione o domicilio, però appunto una sola volta senza approfittarne, e poi invece c'è l'altra zona, la zona arancione, che saranno i 4 giorni feriali del periodo. Quindi mi ricordi prima di salutarci, Celotto? Sì, e quindi 28, 29, 30 e 4 sono arancioni, quindi sono un po' più liberi. Ecco, qui è un contemperamento. Purtroppo lasciare, mi dicono che bisogna chiudere qui, quindi ringrazio moltissimo il professor Celotto, il dottor Laquaniti, vi auguro un buon Natale, il Natale più sereno possibile anche a voi. Grazie. E un miglior anno a tutti. Grazie, speriamo. Devo lasciare anch'io completamente, quindi ringrazio Alessandro Schirano, in assistenza e regia c'è Jacopo De Franchi e poi il nostro Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Io non sarò con voi il 21, 22 e 23, ma ci sarà comunque Effetto Notte con la mia collega Furlanetto. È davvero stato un anno terribile. Ci buttiamo con speranza in quello nuovo e speriamo appunto che questo, al di là appunto di chi ha sofferto tanto e continua a soffrire, che sia per tutti voi un Natale il più sereno possibile.